Ad alta voce, Iaia Forte legge Nudi e crudi di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Claudia Valeria Letizia. Casa Ranson era stata svaligiata. Rapinata, disse Mrs. Ranson. Svaligiata, la corresse il marito. Le rapine si fanno in banca, una casa si svaligia. Mr. Ranson era avvocato e riteneva che le parole avessero la loro importanza, anche se in questo caso era difficile trovare un termine preciso. Di solito un ladro sceglie, fa una cernita, prende un oggetto e ne lascia altri. C'è un limite a ciò che riesce a far sparire. Per esempio, è raro che porti via una poltrona, ancor più raro un divano. Questi ladri, però, l'avevano fatto. Avevano preso tutto. I Ranson erano andati all'opera a sentire Così fan tutte. Il Così, come Mrs. Ranson aveva imparato a chiamarlo. Mozart era fondamentale nel loro matrimonio. I Ranson non avevano figli e probabilmente, non fosse stato per Mozart, si sarebbero divisi già da anni. Quando tornava a casa dallo studio, Mr. Ranson faceva sempre il bagno, poi cenava e dopo cena faceva un altro bagno, questa volta in Mozart. Mr. Ranson ci sguazzava in Mozart, ci si tuffava. Dal piccolo viennese si lasciava ripulire delle sozzure che aveva dovuto sopportare tutto il giorno al lavoro. Quella sera erano stati ai bagni pubblici, cioè al Covent Garden, dove seduto davanti a loro c'era il ministro dell'interno. Anche lui era andato a fare un tuffo per lavarsi di dosso le preoccupazioni della giornata, preoccupazioni che di lì a poco, benché solo in forma di statistica, avrebbero annoverato anche i Ranson. Normalmente Mr. Ranson non condivideva il bagno serale con nessuno, giacché Mozart gli arrivava personalizzato tramite una cuffia e un sofisticato impianto stereo scrupolosamente equalizzato che Mrs. Ranson non poteva toccare per alcun motivo. Secondo lei, i ladri erano venuti proprio per colpa dello stereo che li aveva attirati. I furti di stereo sono all'ordine del giorno. I furti di moquette, no. «Forse hanno preso la moquette per avvolgerci lo stereo», disse al marito. Mr. Ranson ebbe un brivido e ribatté che come imballaggio gli sembrava più plausibile la pelliccia, al che la moglie riattaccò a piangere. Il «così» non era stato un granché. Mrs. Ranson non aveva capito la trama e a Mr. Ranson, che non ci aveva mai neanche provato, era parso senz'altro inferiore alle quattro incisioni che aveva a casa. La recitazione lo distraeva sempre. «Non ce n'è uno che sappia come tenere le braccia», aveva commentato durante l'intervallo. Forse non era solo questione di braccia, aveva pensato Mrs. Ranson, però non gliel'aveva detto. Le era sorto il dubbio che a 180 gradi lo sformato che aveva lasciato nel forno potesse venire troppo asciutto. Forse sarebbe stato meglio a 170, ma era un timore inutile. I ladri avevano portato via sia lo sformato sia il forno. I Ranson abitavano non lontano da Regent's Park, in un palazzo edoardiano color vinaccia. Era comodo per chi lavorava nella City, ma Mrs. Ranson avrebbe preferito stare più fuori. Ogni tanto si vedeva fugacemente nel verde con un cestino al braccio. Il giardinaggio, tuttavia, non faceva per lei. La violetta africana che Mrs. Clegg, la donna delle pulizie, le aveva regalato a Natale, era spirata proprio quella mattina e per evitare che se ne accorgesse l'aveva dovuta nascondere nell'armadio. Altra fatica sprecata. Era scomparso pure l'armadio. Rapporti di buon vicinato non ne avevano. A volte incontravano qualcuno in ascensore con cui scambiavano un sorrisetto guardingo. Un giorno avevano invitato i nuovi inquilini del loro pianerottolo a bere uno sherry, ma lui si era rivelato un invasato del jazz, così si definiva, mentre lei faceva la segretaria in uno studio dentistico e aveva una multiproprietà in Portogallo, sicché, per un verso o per l'altro, era stata una serata imbarazzante e l'esperienza non si era ripetuta. Ormai sembrava che il ricambio di inquilini fosse sempre più veloce e l'ascensore sempre più imprevedibile. C'era un via vai continuo, anche di arabi. «Cioè, ormai pare un albergo», commentò Mrs. Ranson. «Ti sarei grato se smettessi di dire «cioè», ribatté Mr. Ranson. «Non aggiunge nulla al senso della frase». Di quel «parlare sciatto», come lo chiamava lui, ne sentiva già abbastanza al lavoro. In casa, a suo modesto parere, il minimo che potesse pretendere era una sintassi accettabile. Perciò Mrs. Ranson, che normalmente aveva molto poco da dire, tendeva ormai a dire ancor meno. Quando si erano trasferiti a Nusby Mansion, il palazzo vantava un portiere con la divisa viola prugna intonata al colore della facciata. Costui era morto un pomeriggio del 1982 mentre fermava un taxi per Mrs. Brabourne, quella del secondo piano, che poi glielo aveva ceduto per farlo portare all'ospedale. Nessuno dei successori aveva dimostrato altrettanto zelo sul lavoro né altrettanto orgoglio per la divisa e alla fine il ruolo di portiere si era svilito fino a confondersi con quello del guardiano, un tizio che all'ingresso non si vedeva mai e di rado si incontrava altrove, dato che stava sempre rintanato in un rovente stanzino dietro il locale caldaia a dormire su una poltrona scartata da uno degli inquilini. La sera del furto, il guardiano non stava dormendo in poltrona, come d'abitudine, bensì a teatro. Allo scopo di conoscere un tipo più raffinato di ragazza, si era iscritto a un corso per adulti e tra le materie aveva scelto letteratura. Potendo, aveva detto al professore, gli sarebbe piaciuto diventare un lettore vorace. Il professore aveva idee elettrizzanti, anche se non perfettamente articolate, sul tema «l'arte e il posto di lavoro». Nell'apprendere che lui faceva il guardiano, gli aveva procurato dei biglietti per il dramma omonimo, pensando che le riflessioni stimolate dal testo avrebbero dato spunto a una discussione di gruppo. Ma il guardiano non restò più soddisfatto dei Ranson della serata a teatro, né il testo gli ispirò particolari riflessioni. «Considerato ciò che comporta in realtà il mio mestiere», riferì alla classe, «era una stronzata». Il professore si consolò sperando che, a sorpresa, l'esperienza avrebbe prima o poi aperto dei varchi. E non sbagliava. A sorpresa si aprì la porta di casa Ranson. Più tardi arrivò la polizia, ma per farla venire c'era voluto ben altro che tirar su il telefono. A questo, infatti, avevano già provveduto i ladri, portandosi via tutti e tre gli apparecchi dopo aver staccato di netto filo e battiscopa. Siccome i dirimpettai latitavano, con certo gezzo multivacanza in Portogallo, ipotizzò Mr. Ranson, lui era dovuto partire alla ricerca di una cabina. «Un'impresa», aveva detto alla moglie, ora che le cabine servivano anche da gabinetto pubblico. Le prime due che aveva incontrato, anzi, si limitavano a quella sola funzione, perché il telefono era già stato divelto da un pezzo. La soluzione, naturalmente, sarebbe stata un cellulare, ma Mr. Ranson aveva opposto a quella novità «rivela una mancanza di organizzazione», la stessa resistenza che opponeva a tutte le altre, esclusa la riproduzione stereofonica. Aveva continuato a girovagare per le strade deserte, domandandosi come faceva la gente. I pub erano tutti chiusi e l'unico posto ancora aperto era una lavanderia a gettone che aveva un telefono pubblico in vetrina. Gli sembrò un colpo di fortuna. Non avendo mai avuto motivo di frequentare un negozio del genere, non sapeva che potesse essere così attrezzato e si domandò se il servizio fosse a disposizione anche di chi non aveva niente da lavare. In ogni caso, il telefono era attualmente in mano all'unica cliente, una vecchia con due cappotti che visibilmente non lavava i panni da tempo. Così Mr. Ranson prese coraggio. La vecchia teneva la cornetta schiacciata su un orecchio lercio senza parlare e in realtà senza neppure ascoltare. «Potrebbe sbrigarsi, per favore?» le chiese Mr. Ranson. «È un'emergenza!» «Anche la mia, caro!» ribatté la vecchia. Sto telefonando a Padstow, solo che non rispondono. Devo chiamare la polizia, disse Mr. Ranson. L'hanno aggredita, chiese la vecchia. A me anche una settimana fa, ma ormai nessuno si stupisce più. Era un ragazzino. Qui squilla, però c'è un corridoio lungo. Verso quest'ora bevono qualcosa di caldo. Sa, sono suore, aggiunse per chiarire. Suore? Fece Mr. Ranson. Ma è sicura che non siano già andate a letto? No, ce n'è sempre qualcuna in giro. Sono in ballo con le funzioni tutta la notte. E continuò ad ascoltare il telefono che squillava in cornovaglia. Ma non può riprovare dopo? Tornò alla carica Mr. Ranson, vedendo sfrecciare i suoi averi sull'autostrada. La rapidità è un fattore essenziale. Lo so, rispose la vecchia. Invece le suore hanno tutto il tempo che vogliono. Il bello è proprio questo, salvo quando gli si telefona. Ho intenzione di andarci in ritiro a maggio. Ma siamo solo a febbraio, esclamò Mr. Ranson. Ed io? I posti vanno via come il pane, spiegò la vecchia. E ti credo, non si parla mai e si mangia 3 volte al giorno. La usano come casa di villeggiatura per religiosi. Chi l'avrebbe detto che una monaca ha bisogno di una vacanza? Pregare mica è stressante, mica è come guidare l'autobus. Oh, questo continua a squillare. Forse hanno già finito e si sono spostate nella cappella. In effetti potrei riprovare più tardi, solo che... La vecchia guardò gli spiccioli in attesa della mano di Mr. Ranson. Ormai ci ho messo i soldi. Mr. Ranson le allungò una sterlina, ma lei si prese anche gli altri 50 penny. Tanto, disse, la chiamata alla polizia è gratis. Non appena riattaccò, le sue monetine scesero giù da sole, ma Mr. Ranson era così ansioso di telefonare che non ci badò. Più tardi, però, seduto sul pavimento di quella che era stata la loro camera da letto, aveva detto alla moglie: «Te lo ricordi il tasto per la restituzione delle monete? Lo sapevi che non c'è più? Non ci avevo mai fatto caso». «Non c'è più niente», aveva risposto Mrs. Ranson assorta. «Nemmeno il deodorante, nemmeno il portasapone. Questi sono dei marziani, cioè, dico, hanno portato via addirittura lo scopettino del gabinetto». «Polizia, ambulanza o vigili del fuoco?» chiese una voce di donna. «Polizia», rispose Mr. Ranson. Seguì un attimo di silenzio. «Sta banana mi ci voleva proprio», disse una voce maschile. «Pronto, polizia?» Mr. Ranson cominciò a parlare, ma l'uomo tagliò corto. «C'è gente in pericolo?» stava masticando qualcosa. «No», rispose Mr. Ranson, «ma qualcuno ha ricevuto minacce?» «No», rispose Mr. Ranson, «solo che... Capo, al momento c'è un piccolo ingorgo», lo interruppe la voce. «Abbia pazienza, la metto in attesa». Mr. Ranson si ritrovò ad ascoltare un valzer di Strauss. «Probabilmente stanno bevendo qualcosa di caldo», commentò la vecchia, che a giudicare dall'olezzo era ancora lì dietro. «Scusi», disse la voce 5 minuti dopo, «al momento siamo in manuale, il computer è il singhiozzo, posso esserle utile?» Mr. Ranson spiegò che avevano subito un furto e diede l'indirizzo. «Parla dal telefono?» «Ovviamente», rispose Mr. Ranson, «solo che... com'è il numero?» «Hanno portato via anche il telefono», disse Mr. Ranson. «Non è una novità», commentò la voce. «Era un cordless?» «No», rispose Mr. Ranson. «Ce n'era uno in soggiorno, un altro vicino al letto». «Ah, non ci perdiamo in dettagli», disse la voce. «Del resto il furto di un telefono non è la fine del mondo. Mi ridice il numero?» Quando Mr. Ranson fece ritorno a casa, era l'una passata. Mrs. Ranson sedeva appoggiata al muro nella loro camera, nel posto in cui sarebbe andata a letto, se ci fosse stato il letto. Ormai si era messa l'anima in pace. In assenza del marito aveva pianto parecchio. Poi però si era asciugata gli occhi, decisa a far buon viso a cattivo gioco. «Ho pensato che forse eri morto», gli disse. «E perché mai?» «Beh, le disgrazie non vengono mai sole. Se proprio vuoi saperlo, sono finito in una lavanderia a gettone. Un'esperienza orribile. Cosa mangi? Una pastiglia per la tosse. L'ho trovata nella borsetta. Era una delle pastiglie che lui le aveva imposto di portarsi all'opera da quella volta che aveva tirato su col naso per tutto il Fidelio. Ce n'è un'altra? No, rispose Mrs. Ranson succhiando. Era l'ultima. Mr. Ranson andò al gabinetto e troppo tardi si rese conto che i ladri erano stati talmente meticolosi da far sparire sia la carta igienica sia il portarotolo. «Non c'è carta!» gli gridò la moglie. L'unico pezzo di carta reperibile in tutta la casa era il programma del così. E mentre glielo passava dalla porta socchiusa, Mrs. Ranson notò, non senza soddisfazione, che il marito sarebbe stato costretto a pulirsi il di dietro su un ritratto di Mozart. Rigido e spesso com'era, il dépliant patinato, sponsorizzato dalla Barclays Bank, risultò poco pratico e soprattutto inaffondabile. Nonostante tre tirate di sciacquone, l'occhio risentito di Georg Scholti continuò a fulminare Mr. Ranson dal buco della tazza. «Meglio?» chiese sua moglie. «No», rispose il marito, sedendosi accanto a lei contro il muro. Ma poiché il battiscopa le stava piantato nella schiena, Mrs. Ranson si mise di traverso con la testa sulla coscia del marito, posizione in cui non si trovava da molti lunghi anni. Benché Mr. Ranson seguitasse a dirsi che era un'emergenza, quell'intimità gli sembrò sia fastidiosa sia imbarazzante. Evidentemente però piaceva a sua moglie, che si addormentò subito, lasciandolo lì a guardare con aria tetra la parete di fronte e la finestra senza più tende. In quel momento si accorse sconcertato che i ladri avevano rubato anche l'asta e gli anelli. Erano già le 4 quando arrivò la polizia, cioè un omone di mezza età con l'impermeabile che si presentò come un sergente del reparto investigativo e un giovane agente in divisa dall'aria sensibile che non disse una parola. «Alla buona ora», commentò Mr. Ranson. «Sì», rispose il sergente. «Saremmo arrivati prima, se non che c'è stato un piccolo inconveniente, come si dice. Campanello sbagliato. Colpa del qui presente professorino. Ha visto il nome Hanson e...» «No, Ranson», precisò Mr. Ranson. «Appunto, alla fine abbiamo capito. Trasloco recente, eh?» disse il sergente, squadrando il parquet spoglio. «No, abitiamo qui da 30 anni», ribatté Mr. Ranson. «E l'appartamento era tutto ammobiliato?» «Ovvio», rispose Mr. Ranson. «Era una casa normale». «Divano, poltrone, pendola», disse Mrs. Ranson. «Avevamo tutto!» «Anche la televisione?» domandò timidamente l'agente. «Sì», rispose Mrs. Ranson. «Ma non la guardavamo tanto», disse Mr. Ranson. «Videoregistratore?» «No», rispose Mr. Ranson. «La vita è già abbastanza complicata». «Lettore CD?» «Sì», risposero Ranson all'unisono. «E mia moglie aveva la pelliccia», aggiunse Mr. Ranson. «L'assicurazione ha un elenco degli oggetti di valore». «In tal caso», disse il sergente, «siete a cavallo. L'agente Partridge prenderà nota dei particolari. Io intanto, se non vi dispiace, faccio un giretto». «I vicini hanno visto niente?» «Sono in Portogallo», rispose Mr. Ranson. «E il guardiano?» «Forse in Portogallo anche lui», disse Mr. Ranson, «data la frequenza con cui si fa vedere». «Ranson, come il titolo del film?» domandò la gente. «O come Arthur Ranson?» «Partridge è una delle nostre nuove leve col diploma», spiegò il sergente esaminando la porta d'ingresso. «La serratura non è stata forzata, vedo. Saranno entrati dalla finestra. Non è che si potrebbe avere un tè, no?» «No», rispose Mr. Ranson tagliente, «visto che non si può avere neanche una teiera, per non dire una bustina da metterci dentro». «Vorrete il sostegno psicologico, penso, no?» disse la gente. «Come?» «Qualcuno che venga qui a tenervi la mano», disse il sergente controllando la finestra. «Secondo Partridge è importante». «Siamo tutti esseri umani», disse la gente. «Io sono un avvocato», disse Mr. Ranson. «Beh», disse il sergente. Magari potrebbe provarci la sua signora. Facciamo contento il nostro Partridge. Mrs. Ransom sorrise con aria servizievole. Allora scrivo di sì, disse l'agente. Non è che hanno lasciato qualcosa, no? Domandò il sergente tirando su col naso mentre passava la mano su una modanatura. No, come può vedere da sé, non hanno lasciato assolutamente nulla, rispose Mr. Ransom stizzito. Non volevo dire qualcosa di vostro, precisò il sergente. Dicevo qualcosa di loro. E di nuovo tirò su col naso con sguardo interrogativo. Un ricordino? Un ricordino? Chiese Mrs. Ransom. Escrementi, rispose il sergente. Quello del topo d'appartamenti è un mestiere che dà ansia. Il ladro sente spesso il bisogno di evacuare per scaricarsi. Che poi sarebbe un altro modo per dirlo, intervenne l'agente. Per dire cosa, Partridge? Scaricarsi è un altro modo per dire evacuare. In francese, proseguì l'agente, si dice appostare una sentinella. Ah, ecco, e questo te l'hanno insegnato a Leatherhead, disse il sergente. Partridge si è diplomato all'Accademia di Polizia. È come l'università, spiegò l'agente, solo che lì ci si comporta meglio. Ad ogni modo, disse il sergente, date una controllata in giro. Per gli escrementi, dico. Certi ladri sono parecchio creativi. In una casa di Pangbourne l'avevano fatta dentro un applique del 700. In qualunque altro campo avrebbero preso un'onorificenza. Forse lei non se n'è accorto, sottolineò torvo Mr. Ransom, ma non abbiamo più lampade. Un altro a Guildford l'ha fatta in una ciotola di potpourri. Un vero paradosso, disse l'agente. «Senti, senti! E io che credevo fosse solo un drogato con un problema di incontinenza. Comunque, visto che siamo in tema di funzioni corporali, prima di salutarci vado in quel posticino anch'io!» Mr. Ransom si rese conto troppo tardi che avrebbe dovuto avvertirlo e andò a rifugiarsi in cucina. Il sergente tornò scuotendo la testa. «Beh, almeno i nostri amici hanno avuto la decenza di usare il gabinetto, però l'hanno lasciato che è uno schifo!» Non avrei mai pensato di dover fare la pipì su Kirite Kanawa. La sua incisione di West Side Story è una delle chicche della mia collezione. Per la verità, confessò Mrs. Ransom, è stato mio marito. Santo cielo! Esclamò il sergente. A fare che? Domandò Mr. Ransom rientrando nella stanza. Niente! Rispose la moglie. Crede che riuscirete a prenderli? Chiese Mr. Ransom sulla porta. Il sergente scoppiò a ridere. Beh, i miracoli capitano anche nel mondo della pubblica sicurezza. Non è che qualcuno ce l'aveva con voi, no? Io sono avvocato, disse Mr. Ransom. Quindi sarebbe possibile. Non è che qualcuno avrà pensato di farvi uno scherzo. Uno scherzo? Esclamò Mr. Ransom. Oh, era solo un'idea, rispose il sergente. Ma vi avverto, se è un vero topo d'appartamenti, ritornerà. La gente annuì con aria competente. Anche a Leatherhead concordavano in materia. Ritornerà? Esclamò Mr. Ransom con sarcasmo guardando l'appartamento vuoto. Ritornerà? E che cazzo dovrebbe tornare a fare? Mr. Ransom non diceva quasi mai parolacce. E sua moglie, che era rimasta di là, fece finta di non aver sentito. La porta si chiuse. Inutile, disse Mr. Ransom rientrando nel soggiorno. Tutto perfettamente inutile. Per forza uno poi ricorre al turpiloquio. Beh, disse Mrs. Ransom qualche ora dopo, ci toccherà camparci e basta. In fin dei conti, aggiunse con una certa eccitazione, potrebbe anche essere divertente. Divertente? Esclamò il marito. Divertente? I